Radio. Sì, siamo un po' con il cavo vicepetto, siamo 4 baracchi di bene. La partita di sistema che sistema che siamo quello che ha fatto. Vabbè, il sistema che ha pagato. Dopo una settimana ho fatto messo in giornale. Cata gente. E adesso come ha fatto per così. Se si calabbe guai. Ok, per i baracchi ancora gli eventi verranno la dico. Ti mandano via. Arrestatelo, questo lo conosciamo già. No, sì, beh, non ti dico, più guasto di così cosa arrestiamo, capito? Sei tranquillo. Ah, che cosa c'è? Allora, sto con la scusante, grazie. Abbassa le voci, dimmi. Ma io la verità, il telefono ce l'ho acceso, non l'ho mai spento. Natalino ce l'ha acceso, perché ho sentito il radio e mi ha telefonato lui. Ce l'ha fino a poco fa. Se ne sei dimenticato, non fa niente, capita. No, no. Il tuo mi risponde va presto, praticamente mi diceva che dovevo telefonare al centro messaggio, al centro servizi, boh. No, è ancora chiuso, era spento. Ho risultato almeno spento. Con il gattolino l'ho speso da un telefono che l'ho spento. Che strano. Comunque con il gattolino fa sempre così, perché anche io faceva così, lo libero e dava sempre questa spiga qua. C'era la segreteria che entrava e diceva che non eri disponibile e che passava a centro servizi. Ma non è che lo lui, Ho sempre avverso, mi sono dimenticato, non sono riuscito. Ma io ho ricevuto sempre telefonare, sto chiamando a te per esempio, e funziona. Non l'ho mai spento. È quello che mi lascia perplesso, più plesso che per. Lascia lui. Buonasera Alice, buonasera a tutti comunque. Buonasera Gianni, saluto di buonasera anche a te. Come ci ascolti già? Sto per tornare a casa adesso. Sto per tornare a casa e mi prendo la mia K. Come mi senti Gianni? Gianni? Saturo, perché se passi in FM forse ci senti bene tutti due, noi siamo in FM. Dirlo, no? Pensando che avessi qualcosa attaccato. No. Non ci avevo niente attaccato. Stavamo parlando qua. Fiuletto. Vicenza. Vediamo un po'. Comunque, io ho iniziato. Ho piazzato una buona parte, non ho staccato l'altra. Ma l'avete fatto quel lavoro? No, perché io non avevo il numero di Natalino, Natalino non l'ha chiamato, però siete radio che era già buio. C'ho tutto in mezzo qua, ce lo faremo. Però l'ho detto anche a Franco, perché il numero che ho trovato prima è quello di Franco. Farò con Franco. Io Natalino l'ho telefonato appena mi hai chiamato tu e ce l'avevo occupato. Praticamente ce l'avevo aspetto, non occupato. Mi diceva che non ti avevi chiamato, però al telefono spento pure in zona praticamente dove lo riceve, in poche parole. Ho provato a rifarlo e qua che se l'abbia fatto male, ho preso, l'ho rifatto il numero e invece mi diceva la stessa cosa. Poi ho chiamato te per avvisarti che non l'avevo trovato e mi ha detto cosa fare. Il numero da lei chiamato, praticamente era la segreteria, mi ha detto di chiamare il centro servizi. Praticamente veniva dal centro servizi questo numero. Stavo spento, cosa facevo? A me non mi piace parlare nemmeno con la segreteria. Sì, sì. tu devi provare a chiamare dopo, invece che spegnere. Quando ti dà questi errori. Ho chiamato due volte, sia il canalino, è sempre la stessa cosa. Ma deve essere il telefono tuo, secondo me, che c'ha questi problemi, questi rifiuti. Ricevo qualche telefonata durante il giorno, ma comunque, che è stato molto importante. È così. Il mio telefono è nuovo, basta, non ce l'ho più quello di te. L'ho cambiato il telefono, è nuovo. Ah, non si è abituato. Ma cosa? Vabbè, gira come se ti piaci, è così. Io la sto girando. Chiama Natalino dopo, se lo senti meglio, chiedi se aspetta il telefono, se mi ha telefonato, se ci ho parlato. Prova a chiamarmi adesso. Chiamami, dimmi cosa ti dice. Fai il numero. E adesso proviamo, comunque sto guidando un attimino che provo. Tu il telefono ce l'avevi spento stasera. La sua frase a me mi diceva che ce l'avevi spento, Natale. Brava, che avrei fatto qualche altro numero. Il mio è qua, prende il telefono. Ma qui ci ho parlato pure con un avvocato poco fa. Gli ho fatto uno squillo perché il numero mio non ce l'aveva più. Ecco, dice, prendi informazione gratuita, la stessa cosa di stasera. Leggi il numero che stai facendo, Natale, fammi uno squillo, adesso sto parlando, ecco il telefono con la portante premuta, prova a telefonarmi, per farti capire Gianni che non, il telefono lo uso io, c'hai problemi tu sul telefono, non io, darei informazione gratuita. Lugia. Guarda, mi sta chiamando Natalino, te lo faccio sentire. Dunque, sei tu che hai, definisci, data tu la risposta, come Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Tu col telefono hai, non lo so, un campo negativo, quando vai a telefonare te lo metti in quelle orecchie grandi che hai, però se domandi gli fai battimento non funziona più. Ma mai sentito una cosa del genere? Vabbè, poi segreteria, non è una segreteria, l'ho eliminata. Un attimo devo rispondere su Skype. Visto che sto facendo così il fuoco, dai, fallo rispondere a prendere cosa ti dice. C'è la firma, non l'ho sentito nell'apparato, non c'è la rapportante. Gianni, non è possibile fare il tollo, tu mi hai detto che mi stavi telefonando, che mi hai telefonato più di una volta e io non ho sentito nessuno squillo e ti dava una segreteria. Io non ti ho detto che non è vero che non l'hai fatto, per carità, sono sicuro che l'hai fatto, ma cosa hai fatto non so, ho già problemi il telefono tuo, perché ti sto dicendo, io telefonate le ricevo tantissime e il telefono funziona, infatti in diretta ti ho detto, la parola in premuta, ti ho detto guarda se ti fa uno squillo Natalino, chi ha il mio numero ti faccio vedere che squilla. È quello che ti ho detto, è inutile che ti arrabbi, è così. Io ando a telefonato, sono stato in una zona che non prendeva lui, capito? La colpa ma era del telefono di Gianni, non del tuo, guarda. Non ha agganciato né a me né a te, capito? Non è colpa di nessuno. Guarda, era in un punto dove non prendeva. Ma io sono a casa come te tutta la sera qua facendo cosa, perché sono all'antenna, poi sono qui al computer, mi sono sempre a casa in poche parole, e il segnale a tutto motore qua, al massimo. Io lo stesso sono a casa qua, non mi sono mosso per niente, e infatti hai visto che ho fatto lo squillo e subito abbiamo parlato. Sì, ma se lo dice a lui sembra che sia un mio rifiuto che lo stia facendo apposta. Addirittura quando c'era quel telefono 3 io non lo rincontravo mai, dovevo telefonare a casa sua, però non lo potevo mai rintracciare e molte volte spegne il telefono la sera di pomeriggio quando si sta riposando e quindi manco a casa con quel telefonato, perché sta accanto anche a casa il telefono. Scaletta, lui ha fatto così, non è detto che io avevo col telefono cucito sulla tasca o sulle mani, il pomeriggio è uno stress. Lui col telefono ha questi rapporti. Non riesce a trovare, non trovo che ha fatto bingo. Però quando telefono mi dice che mi ha telefonato e io ho telefonato e ne ho ricevuto le sue, no, perché poi se sono occupato, fra l'altro, e sto parlando al telefono, c'ho anche l'avviso di chiamata, dunque lo vedo, non mi ha telefonato, se ha telefonato ha sbagliato numero, avrà fatto un altro numero, può darsi che il telefono gli sia andato in palla, tutte altre cose, ma a me io non ho sentito nessuna chiamata, la tua che ti ho sentito in radio, ho detto fammi un numero, uno squillo che ho cambiato il telefono, l'ho memorizzato, ecco, basta, ergai, dimmi Alessio, un attimo che devo scrivere però. Sì, Dani, ci sei? Danny. Gianni si sarà arrabbiato, lui ha telefonato, siamo noi in difetto. Ma lei se lo... aspetta un attimo, non mi sta squillando. Anche il mio, aspetta. Dimmi lei sì. Gianni, fatti tornare al resto, che quel telefono non serve. Ho provato a telefonarti e mi dice di andare alla segreteria telefonica. Preso al telefono per Gianni. Attento Gianni. Gianni. Gianni. Passiamo la M, a dove ci dica. Inutile, preferisco mettermi la PL 100% a questo punto. Infatti se ne avete la piazzata in quella, poi non l'ha piazzata. No, no, non ha avuto luglio già, non mi sento bene, no. Non ha avuto luglio, se no io l'avrei piazzata. Poi adesso non sono sicuro se lo stilo l'hanno tagliato oppure no, questi qui, bisogna avere la misura esatta dello stilo della PLC 800. Se no è un macello, se lo tolgo riesce a pararla è un macello. Insomma, non lo smetti, guardi, a vedere. È la bottezza davanti alla macchina, l'ho piazzata, cosa hanno le crisi. E se la bottezza risulta che è colpa, non può rubare dalla macchina, bisogna che ti procuri lo stivo di PLC 800. Allora sapere la misura. Ricavi dall'altra e riponi l'altra, se non va bene. L'altra fa proprio quella, per tutto il tiro sfizio. Devi fare sempre che c'è l'antenna. Ma così non lo saprei mai se va bene o no la cosa. Se non la provi non lo saprei mai se va bene o se è dato sventrare o che cosa. Poi già me lo dice Giulio la misura che ce l'ha una PLC 800 lui. Mi dice la misura dello stiva, capito? Se quello che è più colpa non la piazza neanche. Cerco di procurarmi lo stiva, no? È stato quello lì che comanda, mi c'è poco da fare, la bobina, lo stico, sono quelli che comanda. Perché non mi dice che c'è il dito tagliato, il cavo non lo stico, cosa non la fa rimane se mi viene tagliato? Il cavo vuole quella misura lì, se no magari poi ti sa con le stazioni invece che diminuisce. Ma infatti il cavo non si tocca mai, invece una cosa che fa, ti la lavori se taglia. No, è lo stilo che vuole tagliare. Ma neanche, non vuole manco tagliato lo stilo. Ho salito o sceso. A meno che non abbia qualche amplificatore, allora si deve tagliare qualcosa se risulta l'antenna troppo lunga. Capito? Però dopo l'accello lo devi usare sempre con l'amplificatore. Accetto, vedi? È quello che ti volevo dire io, cazzo vai. Perché l'antenna di per sé se c'è amplificatore, vuol dire quella che ho io è zero di stazionario. E perché non lo so? Ma non la mia buona questa antenna. Sono il cazzo è troppo brillante, troppo. Cioè, allora ma la mia non è cavolo quella della macchina Fiat, hai capito? Cosa vuoi? Ma la tua capota me l'ha fatto male nella voce, che s'antenna. Ma fa per quello io. Giampaolo mi pare che la Corsetta ci ha fatto un'antenna. Un'antenna per VHF. Non so se sia quella lì, non lo so se ha messo uno stilo di VHF corto. Sto parlando di s'antenna, guarda, non so come definirlo. Non so se l'ha tagliata se quella lì, però ho visto che c'è un attacco così con uno stilo piccolo. Bene, magari lo stilo suo quando l'ha fatto. Gli ha messo un altro stilo più corto, diciamo così, sono venuti in altri posti. Però deve modificare pure la bobina, capito? Non penso sia quella l'antenna, se no è rovinare un'antenna. Questa è santa io di Sant'Enna. Quale so, 40 euro nuovo. Quanto? 40 euro. Ma da me non si può mettere, me ne traccia la cosa, me ne traccia la capotta. Tu devi mettere solo un rinforzo sotto, e tu? Non c'è, ce lo mandano una gatta, se vuoi programmarlo. Se no non me la vuoi mettere quella, solo che è cazzo. E quella lì pompava, cavolo, se pompava quell'antenna. Quella è un'antenna. Ciao Gianni, ben rientrato. Ciao Walter. Come va? Stavo parlando con Natalino poc'anzi. Mi hanno detto che hai un altro posto di lavoro tra poco adesso. Sono arrivato. Allora, sto arrivando. Ehi, scusate, mi stavo togliendo la camicia. Dimmi, padre, cosa hai detto? Sto dicendo a Natalino di entrare in un altro posto a lavorare a Sassari. Ah, vuol dire che lui lo sa, io no. Oh, così mi ha detto, guarda Gianni, mi sono svegliato in trovare la pelle, compra un po'. Ehi, scappi dalla faccia. Vabbè, appena tagli. Ma lo scappi, fammi che funziona. Del coso e compri il credito, costa molto meno, se tu ne fai in giro per il mondo spendi un decimo di come paghi con gli altri operatori. Ah, devo dire, ma io non ho telefonica qua. Devi avere internet per utilizzare Skype, capito? E internet già ce l'ho, ma è wireless, sta funzionando con quello di su. Vabbè, si può fare lo stesso, compri il credito Skype, poi devi andare anche a, tu guarda come avevi i telefoni gestito voi, beh, a Media World ci sono lo stesso, utilizzi quelli, li colleghi al computer e utilizzi per fare il telefono normale, ricarichi il credito come ricarichi la carta tua e costa molto molto meno che qualsiasi operatore che abbiamo noi. Scommetto si fa, se si fa, come si fa? Così, così è. così è, 9:10 arrivo, 9:05. Va bene anche la modulazione, la voce. Lo so, The Voice. Frank Sinatra. Un attimo la devo scrivere. va bene. Correggi un attimo. Prendo l'otto. Voglio pensare questa antenna domani se fa bel tempo. Oggi non c'era un alito di vento. Sono salito nel tetto, però poi ha fatto sta far buio, un po' mollato, ho riportato giù. Anche perché ci sono i 6 metri, c'è un'antenna alternativa da utilizzare, sempre comoda. Questa che ho in 80 non mi piace, non c'è i 6 metri e via dicendo. Invece questa è più completa. Voglio avere una volta CPC, come l'avrei piazzata. Io qua sarei venuto volentieri, Walter, ma era andato a casa dei miei comuni compari e stavamo ancora mangiando quando ti ho chiamato, figurati di tutto. Non è malato sicuramente. Stavo dicendo, ma domani lavori. Vabbè, ero già detto anche a cose, ma durante una giornata d'ora. Domani tu lavori? Io sì. Ma è così un macello. Cosa? Macello, Un macello sì. Walter, ma che tu sappia, la tassa dell'apparato la puoi pagare anche prima, vero? Non lo so, però è pagare, non ci scrivi.